Anche se Achille con il corpo di Ettore fa di peggio, l'esposizione della testa mozzata del nemico vinto in battaglia non è usanza diffusa nel mondo greco e romano. Come non fa parte d'altronde della cultura delle popolazioni germaniche che si insediavano in Occidente dopo la crisi dell'impero. E quella macabra consuetudine, per quanto sia già attestata nella Cina classica, fu cara particolarmente all'Asia centrale, a quelle popolazioni nomadi e ai loro barbarici condottieri. E sappiamo che la praticavano con larghezza gli Attila, i Gengiscani, Tamerlano, altri terribili signori delle steppe. I turchi ottomani, che con quell'ambiente avevano non poche relazioni e molte affinità, mantennero la pratica in uso fino agli albori dell'età contemporanea. Per la precisione, i generali del sultano di Costantinopoli non esponevano la testa intera, perché preferivano che restasse attaccata al tronco del defunto. Ai nemici caduti veniva prelevata la pelle del volto e della fronte, completa di cuoio capelluto, che veniva poi ricostruita in forma tridimensionale su una base neutra e accuratamente impagliata. La procedura può sembrare raccapricciante, ma aveva, se non altro, il vantaggio di togliere alla cerimonia dell'esposizione molte delle sue caratteristiche più cruente, nonché di permettere di prolungarla nel tempo. Che tutto questo esprimesse soltanto una volontà di autoglorificazione militare o non riflettesse piuttosto qualche antica ritualità religiosa può essere materia di dibattito. Lo sparagmos, il divagnamento rituale della vittima, ci è noto dai culti orfici e dionisiaci. Ricorderete tutti il passaggio delle baccanti di Euripide in cui le donne di Tebe innalzano su una picca il capo di Penteo, e quei culti rimandano a loro volta a una cultura sciamanica che nell'Asia centrale e settentrionale aveva appunto il proprio luogo d'origine. Nessuna motivazione del genere, naturalmente, può essere rintracciata nella decisione del Pentagono di riprendere e perfezionare il sistema ottomano esibendo sotto forma di ingrandimento fotografico la testa di Abu Musab al-Zarqawi, il leader islamico da poco abbattuto in Iraq. L'immagine di un portavoce dell'esercito americano che indica con una specie di bacchetta d'aula scolastica il primo piano incorniciato della faccia del morto ancora coperta di sangue, come l'abbiamo visto in televisione in prima pagina su tutti i quotidiani di venerdì scorso, risponde evidentemente a delle necessità di puro ordine propagandistico, in primis quella di assicurare un'opinione pubblica locale non propriamente convinta, agli alleati malfermi, ai leader incerti, ai vari oppositori potenziali, che quel nemico tanto temibile, quel feroce combattente la cui popolarità era così minacciosamente dilagata e sulla cui eliminazione ci si era più volte impegnati senza successo, era stato effettivamente tolto di mezzo. Che però è un gesto impietoso, incompatibile con gli standard correnti di civiltà, e basterebbe da solo rivelare con drammatica evidenza quanto poco quegli standard siano tenuti in conto in una situazione come quella del conflitto iracheno. Perché sarà sicuramente stato questo Zarqawi un personaggio brutale, responsabile di crudeli attentati terroristici, della decapitazione di ostaggi, di altre nefandezze, anche se non probabilmente tutte quelle che gli vengono attribuite, per cui il presidente Bush ha potuto commentare la notizia della sua uccisione annunciando che giustizia era stata fatta. Ma proprio per questo nessuno era autorizzato a fare del suo corpo un trofeo. L'Iraq è un paese in guerra, sì, anche se qualcuno stranamente crede che ci si possa mantenere dei militari in missione di pace, ma una guerra caratterizzata da una parte come dall'altra, da episodi del genere, rivela una sua crudele specificità, un livello di disumanità su cui può valere la pena ogni tanto di riflettere, perché Attila, se non altro, non diceva di essere lì per difendere la democrazia.